H. Ascolta e indica la parola o le parole che senti. 1. Stette 7 ore in silenzio. 2. Non vide la fine del film. 3. Beve solo acqua. 4. Stiro solo i polsini delle camicie. 5. Vissero bene lì. 6. Non fumo più. 7.